Ma lì per lì non ero in grado di apprezzare il valore di quelle nuove gioie. Non erano offerte dalla ragazzina che amavo al me stesso che l'amava, ma dall'altra, da quella con cui giocavo, a quell'altro me stesso che non possedeva né il ricordo della vera Gilbert né il cuore indisponibile che solo avrebbe potuto conoscere il valore di una felicità perché era il solo ad averla desiderata. Anche dopo essere rientrato a casa, non riuscivo ad apprezzarle perché ogni volta la necessità che mi faceva sperare che l'indomani avrei avuto la visione esatta, calma, felice di Gilbert e che lei mi avrebbe infine confessato il suo amore, spiegandomi per quale ragione aveva dovuto tenermelo nascosto fino ad allora, quella stessa necessità mi obbligava a non tener conto del passato, a guardare solo davanti a me, a considerare i piccoli privilegi che mi aveva concesso non per se stessi e come bastanti a se stessi, ma come nuovi gradini su cui posare il piede che mi avrebbero permesso di fare un altro passo in avanti e raggiungere infine la felicità che non avevo ancora incontrato. Se a volte Gilbert mi dava quei segni di amicizia, mi faceva anche star male per quel suo modo di fare come se non avesse piacere di vedermi. E questo succedeva spesso e proprio nei giorni sui quali avevo maggiormente contato per realizzare le mie speranze. Ero sicuro che Gilbert sarebbe venuta agli Champs-Élysées e provavo un'allegria che mi sembrava soltanto la vaga anticipazione di una grande felicità quando, entrando fin dal mattino in salotto per dare un bacio alla mamma, già perfettamente in ordine, la torre dei suoi capelli neri completamente costruita e le belle mani bianche e paffute, ancora odorose di sapone, avevo intuito, vedendo una colonna di pulviscolo elevarsi dritta sopra il pianoforte e sentendo un organetto di barberia suonare sotto la finestra la canzone «Ritornando dalla rivista», che l'inverno avrebbe ricevuto fino a sera la visita inopinata e radiosa di una giornata di primavera. Mentre facevamo colazione, la signora di fronte, aprendo la finestra, aveva fatto sloggiare in un batter d'occhio, cancellando di colpo tutta la larghezza della nostra sala da pranzo, un raggio di sole che aveva cominciato la sua siesta accanto alla mia sedia e vi era già tornato per continuarla l'istante dopo. A scuola, alla lezione dell'una, il sole mi faceva languire di impazienza e di noia, lasciando scivolare fin sul mio banco un bagliore dorato come un invito alla festa, dove non sarei potuto arrivare prima delle tre, fino al momento in cui Françoise sarebbe venuta a prendermi all'uscita e ci saremmo incamminati verso gli Champs-Élysées, lungo le strade decorate di luce, affollate di gente, e dove i balconi, spalancati dal sole e vaporosi, fluttuavano davanti alle case come nuvole d'oro. Ahimè, agli Champs-Élysées non trovavo Gilbert, non era ancora arrivata. Immobile sul prato, nutrito dal sole invisibile che qua e là faceva scintillare la punta di un filo d'erba e sul quale i piccioni che vi si erano posati parevano sculture antiche che la zappa del giardiniere avesse riportato alla superficie da un suolo augusto, restavo con gli occhi fissi all'orizzonte. Mi aspettavo di vedere comparire da un momento all'altro, da dietro la statua che sembrava offrire alla benedizione del sole il bambino che reggeva in braccio, scintillante di raggi, l'immagine di Gilbert al seguito dell'istitutrice. L'anziana lettrice dei Debat era seduta sulla sua poltrona, sempre nello stesso posto, e rivolgendosi a un guardiano con un gesto amichevole della mano gli diceva «Che bel tempo!». La donna delle sedie le si avvicinava per riscuotere il prezzo della poltrona. Lei, con mille smancerie, si infilava nell'apertura del guanto lo scontrino da 10 centesimi, come fosse un bouquet per il quale cercasse, per cortesia verso il donatore, la collocazione più lusinghiera. Una volta che l'aveva trovata, imprimeva al suo collo una rotazione circolare, si aggiustava il boa e proiettava sulla donna delle sedie, mostrandole la punta dello scontrino giallo che le spuntava dal polsino, il bel sorriso con cui una donna, indicando a un giovanotto la propria camicetta, gli dice «Riconoscete le vostre rose?» Trascinavo Françoise incontro a Gilberte fino all'Arc de Triomphe. Non la incontravamo e io tornavo verso il prato, convinto che non sarebbe più venuta, quando, davanti alla giostra dei cavalli di legno, la ragazzina dalla voce breve si slanciò verso di me. «Presto, presto! Gilberte è già qui da un quarto d'ora! Deve andare via subito! Vi aspettavamo per giocare a bandiera!» Mentre io risalivo l'Avenue des Champs-Élysées, Gilberte era discesa invece per Rue Boissy-d'Anglas. Mademoiselle, la sua istitutrice, aveva approfittato del bel tempo per certe sue commissioni e Swann stava per venire a prendere sua figlia. Così era colpa mia. Non avrei dovuto allontanarmi dal prato. Infatti, non si sapeva mai con certezza da che parte sarebbe venuta Gilberte, se sarebbe stata più o meno in ritardo, e quell'attesa finiva per rendermi più emozionanti non solo gli Champs-Élysées tutti insieme e l'intera durata del pomeriggio, come un'immensa distesa di spazio e di tempo dove in ogni punto e in ogni momento era possibile che apparisse l'immagine di Gilberte, ma anche quell'immagine stessa, perché dietro di essa sentivo che si nascondeva la ragione per cui lei mi veniva scoccata in pieno cuore alle 4 del pomeriggio invece che alle 2:30, con in testa un cappellino elegante invece di un berretto da gioco, davanti agli ambassadeurs e non tra i due teatri dei burattini. Intuivo qualcuno degli impegni in cui non mi era permesso seguire Gilberte e che la obbligavano a uscire o a restare a casa. Ero in contatto con il mistero della sua vita sconosciuta. Ed era quello stesso mistero a turbarmi quando, correndo su ordine della ragazzina dalla voce breve per dare inizio immediatamente alla partita a bandiera, scorgevo Gilberte, così vivace e brusca con noi, fare un inchino alla signora dei Debat, che le diceva che bel sole, sembra un fuoco, e rivolgersi a lei con un sorriso timido e un'aria compassata che mi evocavano la fanciulla diversa che Gilberte doveva essere con i suoi genitori, con i loro amici, in visita, in tutta quell'altra sua esistenza che mi sfuggiva. Ma nessuno mi dava più esattamente il senso di quell'esistenza quanto Monsieur Swann, che veniva un po' più tardi a prendere sua figlia. Lui e Madame Swann, poiché la figlia viveva con loro, perché i suoi studi, i suoi giochi, le sue amicizie erano controllati da loro, esercitavano su di me, al pari di Gilberte, forse anche più di Gilberte, come si conveniva a due divinità onnipossenti cui lei era soggetta e da cui avrebbe tratto la sua origine, il fascino doloroso di un ignoto inaccessibile. Tutto quello che li riguardava era da parte mia oggetto di una preoccupazione così assidua che quando, come in quei giorni, Monsieur Swann, che avevo visto tanto spesso all'epoca in cui frequentava i miei parenti, senza che ciò destasse la mia curiosità, veniva a prendere Gilberte agli Champs-Élysées, una volta calmatosi il batticuore provocato in me dall'apparizione del suo cappello grigio e del suo cappotto con la mantellina, il suo aspetto mi colpiva ancora come quello di un personaggio storico sul quale abbiamo letto tutta una serie di libri, appassionandoci ad ogni minimo particolare. Le sue relazioni con il conte di Parigi, che quando ne sentivo parlare a Combray mi sembravano prive di interesse, assumevano ora ai miei occhi un che di meraviglioso, come se nessun altro avesse mai conosciuto gli Orléans. Lo facevano stagliare nettamente sullo sfondo volgare dei passanti di varia estrazione sociale che affollavano quel viale degli Champs-Élysées e tra i quali trovavo ammirevole che acconsentisse a comparire senza pretendere speciali riguardi che nessuno del resto si sognava di tributargli, tanto era profondo l'incognito del quale si ammantava. Rispondeva cortesemente ai saluti degli amici di Gilberte, anche al mio, benché fosse in rotta con la mia famiglia, ma senza avere l'aria di conoscermi. Mi ricordai che peraltro mi aveva visto spesso in campagna. Quel ricordo l'avevo osservato, ma nell'ombra, perché dopo aver rivisto Gilberte, per me Swann era soprattutto suo padre e non più lo Swann di Combray. Siccome le idee alle quali collegavo ora il suo nome erano diverse dalle idee nella cui rete un tempo era incluso e che ora, quando mi capitava di pensare a lui, non utilizzavo più, era diventato un personaggio nuovo. Lo collegai tuttavia, mediante una linea artificiale, secondaria e trasversale, al nostro ospite di un tempo. E poiché niente aveva più valore per me, se non nella misura in cui il mio amore poteva trarne profitto, con un moto di vergogna e di rammarico di non poterli cancellare, ritrovai gli anni in cui, agli occhi di quello stesso Swann, che avevo in quel momento davanti a me agli Champs-Élysées, e al quale fortunatamente Gilberte non aveva forse detto il mio nome, mi ero così spesso la sera reso ridicolo, mandando a chiedere alla mamma di salire in camera mia a darmi la buonanotte, mentre prendeva il caffè con lui, mio padre e i miei nonni intorno al tavolo del giardino. Swann diceva a Gilberte che le permetteva di fare un'altra partita, che l'avrebbe aspettato un quarto d'ora, e sedendosi come tutti su una sedia di ferro, pagava il suo biglietto con quella mano che Filippo VII aveva tante volte trattenuto nella sua, mentre noi cominciavamo a giocare sul prato, facendo volare via i piccioni, i cui bei corpi iridati, che hanno la forma di un cuore e sono come i lillà del regno degli uccelli, venivano a rifugiarsi, come in luoghi sicuri, chi sul grande vaso di pietra, cui il suo becco, sparendovi dentro, faceva compiere il gesto e assegnava la funzione di offrire in abbondanza i frutti o i semi che l'uccello vi pareva beccare, chi sulla fronte della statua, che pareva coronare, simile a uno di quegli oggetti di smalto, la cui policromia, in certe opere antiche, interrompe la monotonia della pietra, e a uno di quegli attributi che alla dea che li porta valgono un epiteto particolare e ne fanno, come un nome diverso per una creatura mortale, una nuova divinità. In uno di quei giorni di sole in cui non s'erano realizzate le mie speranze, non ebbi il coraggio di nascondere a Gilberte la mia delusione. Avevo proprio tante cose da chiedervi, le dissi. Credevo che questo giorno avrebbe contato molto nella nostra amicizia. Appena arrivata volete già andarvene. Cercate di venire più presto domani, così vi potrò parlare finalmente. Il suo viso si illuminò e saltando di gioia mi rispose: domani? Ah, contateci pure, caro mio, ma non verrò. Ho una grande festa e nemmeno dopodomani vado da un'amica a vedere dalle sue finestre l'arrivo di re Teodosio. Sarà splendido. E dopodomani ancora al Michel Strogoff. E poi verrà presto Natale e le vacanze di Capodanno. Forse mi porteranno nel Midi. Sarebbe molto chic. Anche se mi perderò l'albero di Natale. Comunque, anche se resto a Parigi, qui non ci verrò perché devo andare a fare delle visite con la mia mamma. Addio. Ecco, papà mi sta chiamando. Tornai con Françoise per strade ancora pavesate di sole come la sera di una festa finita. Non riuscivo a trascinare le gambe. Non c'è da meravigliarsi, disse Françoise. Non è tempo di stagione, fa troppo caldo. Ah, mio Dio, ci deve essere tanta di quella povera gente ammalata. Si vede che anche lassù va tutto a scatafascio. Io mi ripetevo, soffocando i singhiozzi, le parole con cui Gilberte aveva lasciato esplodere la sua gioia di non venire più per tanto tempo agli Champs-Élysées. Ma già l'incanto di cui, per il suo stesso funzionamento, mi si riempiva la mente ogni volta che pensava a lei, la posizione particolare, unica, fosse anche dolorosa, in cui la costrizione intima di una piega mentale mi poneva inevitabilmente in rapporto a Gilberte, avevano cominciato ad aggiungere qualcosa di romantico persino a quella prova di indifferenza, e tra le lacrime già si profilava un sorriso che altro non era se non il timido abbozzo di un bacio. E quando giunse l'ora della posta, quella sera, come tutte le altre sere, mi dissi: riceverò una lettera di Gilberte. Mi dirà finalmente che non ha mai smesso di amarmi e mi spiegherà la ragione misteriosa che l'ha obbligata a nascondermelo fin qui, a fingere di poter essere felice senza vedermi, la ragione per cui ha assunto le sembianze della semplice compagna di giochi. Tutte le sere mi compiacevo di immaginare quella lettera, mi pareva di leggerla, me ne recitavo ogni frase. Tutt'a un tratto mi interrompevo spaventato. Capivo che se dovevo ricevere una lettera da Gilbert, non avrebbe potuto in ogni caso essere quella, perché ero io che l'avevo ideata. E da quel momento mi sforzai di distogliere il pensiero da quelle parole che avrei amato mi scrivesse, per timore che, enunciandole, avrei escluso dal campo delle realizzazioni possibili proprio quelle le più care, le più desiderate. Anche se, per un'inverosimile coincidenza, Gilbert, di sua iniziativa, mi avesse inviato proprio la lettera che io avevo immaginato, riconoscendovi la mia opera, non avrei avuto l'impressione di ricevere qualcosa che non provenisse da me, qualcosa di reale, di nuovo, una felicità estranea alla mia mente, indipendente dalla mia volontà, veramente offerta dall'amore. Nell'attesa, rileggevo una pagina che non mi aveva scritto Gilbert, ma che almeno mi veniva da lei, quella pagina di Bergotte sulla bellezza degli antichi miti cui si è ispirato Racine e che, insieme alla biglia d'Agata, portavo sempre con me. Mi inteneriva la bontà della mia amica che me l'aveva fatto cercare. E siccome tutti sentiamo il bisogno di fornire ragioni alle nostre passioni, fino a riconoscere con gioia nell'essere amato qualità che abbiamo appreso dalla letteratura o dalla conversazione, essere degne di destare l'amore, al punto di assimilarle per imitazione e farne nuove ragioni del nostro amore, quando anche fossero le più opposte a quelle che l'amore avrebbe ricercato finché era spontaneo, come era stato un tempo per Swann la qualità estetica della bellezza di Odette, io, che avevo amato Gilbert fin dal tempo di Combray, in virtù di tutto quello che c'era di ignoto nella sua vita, l'ignoto nel quale avrei voluto inabissarmi, incarnarmi, abbandonando la mia vita che non aveva più senso per me, pensavo ora come a un inestimabile privilegio che di quella mia vita troppo nota, disprezzata, Gilbert avrebbe potuto divenire un giorno l'umile servitrice, la comoda e confortevole collaboratrice che la sera, aiutandomi nel mio lavoro, avrebbe collazionato per me qualche testo. Quanto a Bergotte, quel vecchio infinitamente saggio e quasi divino, a causa del quale avevo inizialmente amato Gilbert, prima ancora di averla vista, ora era soprattutto a causa di Gilbert che l'amavo. Con uguale piacere, guardavo le pagine che aveva scritto su Racine e l'involucro, chiuso da grandi sigilli di cera bianca e annodato con una cascata di nastri color malva, dentro il quale Gilbert me le aveva portate. Baciavo la biglia di Agata, che era la parte migliore del cuore della mia amica, la parte non frivola ma fedele e che, benché ammantata dell'incanto misterioso della vita di Gilbert, restava accanto a me. Abitava nella mia stanza, si stendeva nel mio letto. Ma la bellezza di quella pietra e anche la bellezza di quelle pagine di Bergotte, che ero felice di associare all'idea del mio amore per Gilbert, come se nei momenti in cui questo mi appariva del tutto irreale, gli conferissero una sorta di consistenza, mi accorgevo che erano anteriori a quell'amore, che non gli somigliavano, che i loro elementi erano stati fissati dal talento o dalle leggi della mineralogia prima che Gilbert mi conoscesse, che nulla in quel libro e in quella pietra sarebbe stato diverso se Gilbert non mi avesse amato e niente, di conseguenza, mi autorizzava a leggere in essi un messaggio di felicità. E mentre il mio amore, attendendo sempre dall'indomani la confessione di quello di Gilbert, annullava, disfaceva ogni sera il lavoro malfatto della giornata, nelle tenebre del mio essere un'operaia sconosciuta recuperava i fili strappati e li disponeva, senza curarsi di compiacermi o di lavorare per la mia felicità, in un ordine diverso, quello che dava a tutte le sue opere. Non avendo alcun interesse particolare per il mio amore, non avendo deciso in anticipo che io fossi amato, raccoglieva le azioni di Gilbert che mi erano sembrate inspiegabili e le colpe che avevo scusato. Allora le une e le altre acquistavano un senso. Quell'ordine nuovo sembrava dire, vedendo Gilberta andare a una festa o a fare delle commissioni con la sua istitutrice, prepararsi a un'assenza per le vacanze di Capodanno invece di venire agli Champs-Élysées, che avevo torto a pensare lo fa perché è frivola o docile. Infatti, avrebbe smesso di essere l'una o l'altra se mi avesse amato. E se fosse stata costretta ad obbedire, l'avrebbe fatto con la stessa disperazione che provavo io nei giorni in cui non la vedevo. E diceva anche quell'ordine diverso che dovevo pur sapere cosa significa amare, visto che amavo Gilbert. Mi faceva notare la preoccupazione costante di farmi valere ai suoi occhi, per cui cercavo di convincere mia madre a comprare a Françoise un impermeabile e un cappello con la piuma azzurra, o meglio ancora, a non mandarmi più agli Champs-Élysées con quella governante di cui arrossivo, al che mia madre replicava che ero ingiusto con Françoise, che era una brava donna e c'era affezionata. E anche quel bisogno esclusivo di vedere Gilbert, per cui non pensavo ad altro, con mesi di anticipo, che a cercare di sapere in che periodo avrebbe lasciato Parigi e dove sarebbe andata, trovando il più attraente dei paesi un luogo d'esilio, se non ci fosse stata anche lei, e desiderando unicamente restare a Parigi finché potessi vederla agli Champs-Élysées. E non si faceva scrupolo di mostrarmi che avrei cercato invano una simile preoccupazione o un simile bisogno nel comportamento di Gilbert. Al contrario, lei apprezzava la sua istitutrice senza preoccuparsi di quel che ne pensavo io. Trovava naturale non venire agli Champs-Élysées se era per uscire a fare acquisti con Mademoiselle, piacevole se era per uscire con sua madre, e anche supponendo che mi permettesse di andare in vacanza nella stessa località dove andava lei, quantomeno nella scelta di quella località, teneva conto del desiderio dei suoi genitori, dei mille divertimenti di cui l'avevano parlato, e non certo del fatto che fosse quella in cui la mia famiglia aveva intenzione di mandarmi. Quando a volte mi diceva di volermi meno bene che a qualcuno dei suoi amici, meno di quanto me ne voleva il giorno prima, perché per una mia distrazione l'avevo fatto perdere una partita, le chiedevo perdono, le chiedevo che cosa dovevo fare perché ricominciasse a volermi bene come prima, perché mi volesse bene più che agli altri. Volevo che mi dicesse che era già così, la supplicavo. Come se avesse potuto modificare il suo affetto per me a suo o mio piacimento, per farmi piacere, semplicemente con le parole che mi avrebbe detto, secondo la mia buona o cattiva condotta. Non sapevo, dunque, che quello che provavo io per lei non dipendeva né dal suo comportamento né dalla mia volontà. Diceva infine il nuovo ordine tracciato dalla invisibile operaia, che se possiamo desiderare che le azioni di qualcuno che ci ha fatto finora soffrire non siano state sincere nella loro successione, c'è una logica contro la quale il nostro desiderio non può fare nulla, e a quella, più che al nostro desiderio, dobbiamo chiedere quali saranno le sue azioni di domani.